The Children's World, dal 1 al 9 agosto a Torino, teatro, spettacoli, giochi e laboratori per ragazzi e famiglie con compagnie dalla Cina, Giappone, Italia, Francia, Romania, Spagna, Belgio, Russia. Info e biglietteria www.casateatroragazzi.it. Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca. La Sinfonia numero 2, opera 17 di Piotr Ilich Tchaikovsky. Buongiorno, siamo arrivati al secondo appuntamento con le sei sinfonie di Tchaikovsky. La seconda ha un sottotitolo che si chiama Piccola Russia. Questo vuol dire che, come la prima, è ricca di temi popolari russi. Quindi, in un certo senso, smentisce, no, il fatto di Tchaikovsky, compositore occidentale, e Mussorgsky, Borodin, no, e compagnia bella come compositori russi. Certo, questi temi russi che Tchaikovsky usa, soprattutto nei primi tre movimenti, sono inseriti in un contesto sinfonico che i cinque non conoscevano, no, comunque non utilizzavano. Erano più modernisti, diciamo. Ma nell'ultimo movimento vedremo che è veramente sorprendente quello che fa Tchaikovsky con un semplice tema in do maggiore. Cominciamo dall'inizio. La sinfonia comincia con uno strappo di tutta l'orchestra e poi un vuoto di un corno solo. Sentiamo. Adesso sentite cosa succede. Il corno è sostituito dal fagotto, con un illusionismo timbrico, perché in quel registro ha un timbro simile il fagotto, ma eccolo. È un corno in minore, come, no? Con il pizzicato sussurrato, violoncelli e contrabbassi. Comincia subito con le magie timbriche. Di nuovo il corno, ma con un ritmo sincopato di flauti e clarinetti che danno tutto un altro sapore al tema, e gli archi cominciano a contrappuntare. Ecco, questo tema russo, molto bello, presenta subito queste note. Sono note che poi ritroveremo nella Patetica, all'inizio della Sesta Sinfonia. Ma soprattutto ci interessa nella Seconda Sinfonia il fatto che diventino il primo tema. Sentite. Ecco il primo tema. No? Che è un po' come un framartino campanaro, no, in minore. Ecco, sentiamo proprio il momento in cui i corni, due corni questa volta, che finiscono di esporre il tema russo, questo tema russo si trasforma nel primo tema. Questa nota rimane lungamente ed ecco il tema, affidato ai legni e poi agli archi, con un suono molto simile alla Patetica, al tallone, gli archi nella quarta corda, i violini nel registro grave. Subito vibrante la musica. Eccolo, tutti gli archi. Qui comincia un passaggio modulante, cioè cambia tonalità e si va verso il secondo tema. Eccolo. Ecco, questo è il secondo tema. Vedrete che questo secondo tema, che apparentemente è innocuo, cioè non è né carne né pesce, in realtà è uno degli elementi portanti di questo primo tempo, forse anzi l'elemento più importante. Questo elemento sono tre note cromatiche ascendenti e poi questi altri due elementi che Tchaikovsky usa spesso così. Sentiamo proprio come continua questo secondo tema, perché subito capiamo questo doppio uso. Tarari, tarati, taratata. Sentiamo. Sentite i violini. Sono proprio le sei note del tema, subito che diventano accompagnamento. Sentite adesso viola e violoncelli. Stavolta sono i legni. Ecco le tre note ascendenti, cromatiche. Sono solo le prime tre note del tema. Vedi, Tchaikovsky è un costruttore. Uno che sa svolgere proprio la musica. Che rende tutto conseguenziale. Torna il primo tema. È come se lo sviluppasse. Ma lo sviluppo comincia esattamente qua. Qua. Ecco il secondo tema. Primo tema. Ecco, avete sentito che proprio qui sentiamo isolati gli elementi del secondo tema? No, questo elemento. Da questo punto in avanti parte proprio tutta un'elaborazione molto bella perché Tchaikovsky sovrappone questa volta, non li mette giustapposti uno dietro l'altro, ma tutti uno sopra l'altro. Cioè questo elemento, le prime tre note del secondo tema e il tema dell'introduzione, cioè torna il tema russo. Sovrapposto, sentiamo. Eccolo. Sentite i bassi. Sono le prime tre note del secondo tema. Tema russo. Le prime tre note. Sempre il tema russo che diventa un canone. Adesso le prime tre note del tema. E il tema russo ai corni. Il primo tema che torna prepotentemente. Figura contrastante, ascendente delle trombe e dei tromboni. Primo tema. Adesso c'è un grande crescendo. È l'apoteosi del primo tema. Ed ecco la ripresa. Ecco, questo è un tipico sviluppo tchaikovskiano, dove vedete che in realtà non c'è nessun elemento nuovo, si basa sempre, diciamo così, Beethoven, per esempio, uno sviluppo di Beethoven, molto spesso, ma anche Mozart, ha degli elementi nuovi, che vengono a galla nello sviluppo. Direi che la maggior parte delle volte Tchaikovsky si concentra proprio sugli elementi costitutivi dei temi precedentemente esposti, no? E ne fa di tutti i colori, li sovrappone, li giustappone, fa delle modulazioni sorprendenti. Avete sentito anche molti artifici del contrappunto, proprio. Spesso ci sono dei fugati, no? Dei canoni. Secondo me c'è anche una componente, non dico narcisistica, ma di insicurezza. Cioè lui era una persona sicuramente con dei problemi di equilibrio psichico e evidentemente il fatto di ricorrere, di far vedere anche quanto era bravo proprio, no? A usare il contrappunto, una cosa gli dava sicurezza, gli dava, era una naturalmente questo potrebbe portare anche a un accademismo, no? Sentite che è materia viva, è come un vulcano in eruzione, questo sviluppo è bellissimo, non ha niente dell'accademia, solo nei momenti meno ispirati, diciamo così, se vuol dire qualche cosa ispirazione, cosa di cui dubito, insomma. Ma andiamo adesso al secondo movimento. Il secondo movimento è una marcetta apparentemente innocua, ma vedrete che ha dei tesori sublimi da far scoprire. Innanzitutto comincia con i timpani da soli, che l'apparenta anche ad altre sinfonie, sia di Tchaikovsky che di altri autori. Sentiamo l'inizio. Ecco il tema. Sono i clarinetti e i fagotti. Da questa goffaggine si passa agli archi. Che hanno una leggerezza quasi da Pierino il Lupo. Adesso c'è un passaggio, un ritmo puntato di marcetta. Tarirara, taririra, tararari, tararari. Che porta al secondo tema. Eccolo. Fagotti con i violoncelli. Di nuovo il ponte. Questa volta il ponte porta alla ripresa del primo tema. Siamo di fronte a quello che vi dicevo ieri, ABA, lo dicevo l'altra lezione. ABA. Adesso attenzione, corni da soli, come all'inizio del primo tempo. Preludono al terzo tema, che ha molto a che vedere col tema dell'introduzione. Adesso attenzione, perché c'è un effetto dei flauti magico. Eccolo. Ecco, come è fatto questo? Ecco, come vi ricordate l'inizio della prima sinfonia che aveva questo tremolo dei primi violini e i secondi violini che facevano il contrario, l'effetto era qualcosa di impalpabile, di magico, no? Di impalpabile. Ora, la stessa cosa viene con questi flauti, invece di fare così il primo flauto, cioè una nota sola, ne fa due. Il secondo flauto fa il contrario. Praticamente costringe i due flautisti, invece di fare un passaggio facilissimo, a farne uno che li fa affannare. Ecco, questo affannamento, no, noi lo sentiamo nella musica. E quindi il passaggio diventa un'epifania, diventa qualcosa di unico, non il solito note ribattute dei flauti. Che noia. No, diventa una cosa viva. Ecco, l'orchestrazione, la strumentazione, questi piccoli segreti, che non sono per niente piccoli, sono dei segreti con cui è strutturata la musica di Tchaikovsky, dalla prima nota all'ultima, sono le cose che mi commuovono proprio di questo compositore più di ogni altra. Adesso sentiamo sempre il primo tema, questo meraviglioso... come ritorna e come viene variato. Cioè, questa volta non c'è un'elaborazione, c'è una serie di variazioni di questo tema. Sentiamo. Sentite le tipiche scale tchaikovskiane. Spesso le usa. Ecco il tema. Sentite la nevrosi degli archi. Seconda variazione. Con i legni. Adesso tutta l'orchestra. Terza variazione. Fortissimo. Prelude a un piano da balletto. È sempre il tema. Adesso andiamo alle code. Nelle code vedremo che fa un gioco molto bello, perché questo tema, che abbiamo sentito sempre nella sua completezza, si frammenta, no? E muore. Abbiamo già visto questo nella prima sinfonia. Sentiamo. Il tema poi addirittura qui è legato. Noi siamo sicuri. Siamo molto contenti che sia legato questo tema. Si comincia a rallentare. Rimangono solo i timpani. Sentite come adesso sono solo frammenti del tema. Di nuovo. Sentite il ritmo puntato, sminuzzato. È un effetto quasi stravinskiano. Avete sentito queste ultime cinque note, cioè i timpani, boom, violoncelli, contrabbassi, tum, quindi boom, tum, boom, tum, boom. Stravinsky farà tesoro di cose del genere. Per esempio la fine del primo tempo del Capriccio del pianoforte orchestra è praticamente la stessa cosa. Passiamo allo scherzo, che è uno dei più belli scherzi della storia della sinfonia. Cominciamo a sentire subito l'inizio. Sentite il ritmo, è elettrico. E sentite come gioca con i legni. Ritmo. Di nuovo gioca con i legni. Sentite adesso questo strano ritmo che nasce. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Strappo. 1, 2, 3. Ripresa. Fortissimo. Ecco, adesso c'è una parte centrale, che è il trio, che è basata su un tema quasi demenziale. Sentite. È quasi una filastrocca da bambini, ma sentite come gioca sovrapponendo questo tema infantile con il tema dello scherzo, e poi come poi torna lo scherzo. Sentiamo. Flauti. Legni, archi. Questo è un gioco che fa sempre Tchaikovsky. Ed ecco la ripresa. Cioè, da due pa pa para para para si è passati a pa pa pa pa pa pa pa pa, cioè Non ce ne siamo quasi neanche accorti, no? È una cosa irrelata, no? Che non è preparata per niente. Cioè, a volte Tchaikovsky prepara le cose in modo da far nascere i temi piano piano, a volte invece, come vedete, non c'è soluzione di continuità. Sentiamo la fine, dove è proprio quello che vi dicevo prima, qui sovrappone i due temi. Diciamo così che i timpani sono in tre e invece i legni sono in due. Sentiamo. Ecco i timpani, eccoli. I legni sono in due, i timpani sono in tre. Gli archi sono in tre. Adesso sentite cosa succede. Rimane un accordo fermo. Questa è l'ottava di Beethoven. E anche Ligeti. Avete sentito come c'è una trascolorazione di colore, no? I legni. I legni, pa, che diventano po, i corni, no? Con le trombe. Una trascolorazione che Beethoven fa mirabilmente nell'ottava sinfonia e che poi no, Ligeti userà in tutta la sua musica. E arriviamo al punto clou, secondo me, di questa sinfonia, che è, per me è tutta bellissima, è forse la più bella, ecco, delle prime tre. Quest'ultimo movimento è un colpo da maestro. È un pezzo fenomenale, perché fosse un unicum nella musica dell'Ottocento. Pensate che c'è un tema altrettanto demenziale che della parte centrale dello scherzo. Perché ve l'ho ripetuto tante volte? Perché Tchaikovsky lo ripete 70 volte, ma non 71 o 69, proprio 70 volte. E la capacità sua di orchestrazione è magnifica, per cui sappiamo, no, di cosa è capace. Sentiamo cosa vuol dire. È una specie di bolero di Ravel ante litteram, fatto però con un tema che il bolero di Ravel ha un tema lunghissimo. Questo invece è un tema che si esaurisce in 3 secondi. Sentiamo. Innanzitutto c'è la formazione del tema. Eccolo. Le prime 3 note del tema, poi le prime 5 note del tema. Adesso sembra Mussorgsky, sentite, i quadri in esposizione. Sembra l'inizio dei quadri in esposizione. È il tema che si sta formando. Timpani. Ed ecco il tema ripetuto. Prima volta, seconda volta, terza, quarta, quinta, sesta, frase contrastante, settima volta, ottava, frase contrastante. Nona, decima, undicesima, dodicesima, è tutto fatto con l'orchestrazione, tredicesima, quattordicesima, è puro colore, quindicesima, diciassettesima, diciottesima, frase contrastante. Stavolta fra legni, archi, legni, archi, legni, archi, legni, legni, legni, legni, legni, archi, legni, archi. Passaggio, diciannovesima, ventesima, code. Ventesima, ventunesima, conte di nuovo. Adesso attenzione che c'è il secondo tema. Siamo arrivati alla 21esima ripetizione. Ecco, il secondo tema è completamente diverso. È incerto ritmicamente, galleggia ritmicamente. Ecco, andiamo più avanti e vediamo cosa succede nella ripresa del primo tema. 23esima volta. 24esima volta. Ogni volta è diverso. 25esima. 26esima. 27esima. 28esima. Passaggio. Ventinovesima volta. Tredicesima volta. Attenzione alla nuova figura dei corni del trombone. Mussorgsky. Questo elemento mussorgskiano adesso diventa la base su cui Tchaikovsky fa lo sviluppo del tema. È uno sviluppo in realtà che è sempre la ripetizione. 31esima, 32esima, ma in varie tonalità. 33esima. Sentite l'elemento mussorgskiano al basso. Secondo tema. Quindi comincia a mescolare il primo e il secondo tema. Però sotto c'è sempre Mussorgsky. Ta pa. Tanti. 36esima, 37esima, 38esima volta. Secondo tema. Adesso attenzione, questo secondo tema comincia a zoppicare ritmicamente. E l'elemento mussorgskiano è sempre più importante. 40esima volta del tema. Tema zoppicante, secondo tema. 41esima volta. 42esima. Quarantatreesima, quarantaquattresima, quarantacinquesima, quarantaseiesima, quarantasettesima, quarantottesima. È un pezzo da incubo. Ecco, concludiamo qua. Ci sono ancora altre 20 ripetizioni. La sinfonia è veramente un capolavoro. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima volta, dove ascolteremo la terza sinfonia di Tchaikovsky. Un saluto da Luca Mosca. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sinfonia numero 2, opera 17 di Piotr Ilyich Tchaikovsky dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.